I wouldn't kill her when I war. I don't get what they do it for. It's all so terribly vague. I see the pictures from a thousand years of battle, and I think it's such a bore. I walk New Orleans with a knife, like Nike hidden out of sight. But I'd be useless if they jump. Sfumiamo questo pezzo di Amanda Palmer and the Grand Theft Orchestra, l'aggancio con la puntata di Coccoli al Sidicio che state per andare ad ascoltare è in realtà semplicemente per il nome del gruppo, cioè è la grande truffa sostanzialmente, perché in questa puntata andiamo appunto a parlare di truffe di Data Branch. In particolare, quando per Data Branch intendiamo sostanzialmente dei furti di dati personali, principalmente utenti, password, email, carte di credito e quant'altro, dai grossi provider e non anche, perché parleremo anche di un data branch piccolino, però principalmente di grossi provider. E in particolare il primo con cui iniziamo è questa, una notizia diciamo fresca di questa settimana, che in realtà però si rimparla praticamente ormai da 2 anni, cioè Yahoo, una nota azienda del settore informatico che recentemente è stata acquisita da Verizon, ha reso noto che gli sono stati sottratti negli ultimi anni, in particolare con diciamo un famoso data branch che è avvenuto addirittura nel 2013, non 1 biliardo di cioè 1 miliardo di account, ma bensì 3. Nel senso che finora avevano detto 1, ora di recente hanno ammesso no, in effetti sono 3, quindi praticamente sono tutti gli account che c'hanno, immagino. La cosa appunto interessante di questo di questa notizia è più che altro come si è diffusa nel tempo, nel senso che di questo di, diciamo di, delle prime le prime notizie su questo data branch risalgono a circa un anno dopo l'intrusione, cioè nel 2014, e mano a mano venivano sempre incrementate fino ad arrivare ad oggi, in cui dicono che appunto gli account compromessi sono sostanzialmente tantissimi, e quindi sostanzialmente tutte gli account quasi di Yahoo devono considerarsi compromessi, e anche se diciamo questa cosa è avvenuta nell'agosto del 2013, è sostanzialmente data la grossa quantità di account in gioco, e non è affatto detto che tutti questi tantissimi utenti abbiano cambiato le password, e di conseguenza diciamo che questo branch, questo furto, diciamo questa violazione dei server di Yahoo, che sono avvenuti essenzialmente, pare, dalle cose, diciamo dalle indiscrezioni tecniche, poi non si capisce perché Yahoo non ha chiarito benissimo, però sostanzialmente pareva che fosse di mezzo sostanzialmente una grossa infrastruttura informatica, che però faceva poi alla fine capo per l'autenticazione a un piccolo pool, più piccolo pool di macchine, e che serviva un po' a centralizzare il controllo delle password. Ecco, diciamo, degli hacker hanno violato quel piccolo pool di macchine e quindi hanno avuto accesso poi a tutti questi dati. Ne avevamo già parlato in realtà forse in qualche altra puntata. Per riassumere, i dati in questione sono appunto nomi, indirizzi di posta, numeri di telefono, date di nascita, delle password, delle password da specificare che usavano come algoritmo di cifratura l'MD5, che però è un algoritmo che si viola abbastanza velocemente ormai. E in alcuni casi, così è stato specificato da Yahoo, anche le password e le domande, diciamo le domande e le risposte per il recovery delle password. In realtà questo è abbastanza interessante, perché anche se non ho la password, ma ho la domanda la domanda di recovery e la risposta relativa, è semplice ottenerla, ecco, cioè mi viene comodamente spedita. E dunque qual è diciamo, la summa di questa roba? È che sostanzialmente perché avvengono queste cose, sarà un po' il mantra di tutta la puntata, essenzialmente perché esiste un fiorente mercato dei dati personali, dei nostri dati personali, anche quelli che a noi sembrano abbastanza insignificanti. È una cosa che effettivamente non tocca tantissimo l'utente, perché si tende a pensare ai dati personali un po' come all'elenco del telefono, no? Cioè, nel senso che l'elenco del telefono alla fine era pubblico, era cartaceo, non è che se uno aveva quell'elenco del telefono aveva chissà quale tesoro in mano. Però nel mondo dell'internet in realtà non è così, nel senso che esiste un fiorente mercato che va, diciamo, dagli spammer, cioè da quelli che vogliono conoscere tantissime email valide per potergli mandare lo spam, ma anche il mercato, ad esempio, dell'utente delle password è importante, perché gli stessi spammer possono, ad esempio, utilizzare account validi per mandare la loro posta, e alla peggio verrà chiuso l'account valido. E d'altra parte nell'email ormai si trovano un po' tantissime informazioni, e di conseguenza diciamo anche semplicemente avere un account email o un numero di telefono è un piccolo tesoro, soprattutto se non ne ho uno solo, ma ne ho milioni e milioni. Ecco, quello, diciamo, questo piccolo tesoro è utile per tutte quelle compagini commerciali che poi su di noi fanno del marketing. Da qui si capisce perché ci siano così tanti data branch negli ultimi 6 o 7 anni, e perché si vada a ricercare questo tipo di informazioni. Questa violazione era stata riferita negli anni scorsi a quelli che vengono chiamati state sponsorized diciamo attack, cioè nel senso agli attacchi in qualche modo patrocinati da governi. In questo senso, la finalità commerciale è comunque, secondo me, la principale, nel senso che i governi fanno affari e i governi tendenzialmente possono tranquillamente avere un interesse nell'avere uno scambio di favori o comunque un rapporto con gruppi di spammer, hacker che lavorano per loro, e di conseguenza dare copertura in qualche modo a questo tipo di operazioni. Il data branch di Yahoo è stato, insomma, uno dei più grossi. Ce n'è un altro di cui vi volevo narrare prima di farvi sentire, però, cioè dopo avervi fatto sentire però un pezzo che lo introduce. È un altro branch, un altro furto avvenuto qualche tempo fa. Questo riguarda una struttura un po' più particolare, nel senso che Yahoo è facile capire cosa fa. Yahoo fa le mail e quello si capisce facile. Invece quest'altro riguarda sostanzialmente una strana struttura, almeno strana per me, che si chiama Equifax, che sostanzialmente quello che si chiama credit score, nel senso che sarebbero coloro che si fanno da intermediari quando voi chiedete un prestito, quando voi, insomma, volete accedere ad un mutuo o comunque avete bisogno di credito, ecco. Le strutture a cui voi chiedete credito spesso si rifanno a queste agenzie di credit score, una delle più famose è questa Equifax, le quali vi danno assolutamente un punteggio per quotare la vostra affidabilità agli occhi del creditore. Quindi decideranno, in base a quanto risultate credibili o meno, se concedervi un prestito o no. Ora, dopo aver ascoltato un pezzettino introduttivo, vi spiego meglio in cosa consiste questo data branch, anche un po' un cosino cosa consiste il credit score e perché questo data branch è quasi peggiore di quello di Yahoo, nonostante i numeri coinvolti siano più piccoli, ma non così tanto più piccoli alla fine. I telefoni non sanno funzionare da soli, ok? Senza di voi. Sono soltanto attrezzi di plastica, come un M16 carico senza un marine che prema il grilletto. E nel caso del telefono, tocca a voi, a ognuno di voi, miei agguerritissimi strattoniani, i miei killer che non accetteranno mai un no come risposta, i miei fottuti guerrieri, che non riagganceranno il telefono fino a quando il cliente o compra o, per Dio, schianta! E vi dico un'altra cosa. Non c'è alcuna nobiltà nella povertà. Io sono stato un uomo ricco e sono stato un uomo povero. E scelgo la ricchezza tutta la vita, cazzo! Almeno come uomo ricco, quando devo affrontare i miei problemi, lo faccio seduto in una limousine, con un vestito da $2,000 e un orologio d'oro da $40,000, cazzo! Lasciatelo a lui! L'ha preso lui! E se qualcuno di voi crede che io sia superficiale o materialista, vada a lavorare da quel cazzo di McDonald's, perché è quello il suo posto, porca troia! Ma prima di lasciare questa stanza piena di vincitori, voglio che diate un'occhiata alla persona che sta accanto a voi. Perché in un futuro non molto lontano... Guardatevi accanto, questo era un pezzo che introduceva un po' il mondo di cui andiamo a parlare. Il pezzo interessante era quello che non c'è alcuna nobiltà nella povertà. E con questa bellissime e commoventi frasi prese da The Wolf of Wall Street vado a illustrarvi che cosa fa questa Equifax. Sostanzialmente Equifax, ed è importante capire cosa fa per capire il tipo di dati che gli sono stati sottratti, ecco, abbiamo detto che Equifax sostanzialmente calcola il vostro credit score, che significa tiene conto di alcuni fattori e quindi questi sono i dati in suo possesso su di voi. Allora, quando voi chiedete sostanzialmente un prestito, avete bisogno di soldi, eccetera, il vostro credit score è calcolato in base, ad esempio, a questi criteri, tipo il tipo di residenza, ad esempio in affitto di proprietà. Ad esempio, se siete proprietari di una casa, avete più punti. Viene valutato anche la lunghezza di tempo in cui risiedete nell'abitazione. Quindi se risiedete da molto tempo nella stessa abitazione, questo è considerato un simbolo di stabilità. Un'altra cosa che viene valutata è il lavoro e la lunghezza del tempo per cui avete lavorato per un certo datore di lavoro. Nel senso che a parità di tempo, se siete dei dipendenti fissi, prendete più punti, ad esempio. Un'altra cosa che viene valutata è se avete un numero di telefono fisso oppure un cellulare. Se avete un numero di telefono fisso siete più stabili, prendete più punti che se avete semplicemente un cellulare. Poi vengono controllati se in passato avete effettuato i pagamenti in tempo delle bollette, tipo se non avete pagato in tempo la luce, il gas, queste cose qua, prendete meno punti. E poi viene valutato anche quante persone avete a carico, se avete moglie o figli, e chiaramente questo incide parecchio, perché se avete moglie o figli siete più stabili. E rispetto a un poveraccio che magari c'ha il lavoro precario, non è, vive ancora a casa, eccetera, così non contate un cazzo, non vi daranno mai una lira. Ecco, tutte questi fattori vengono appunto presi in carico da queste credit agencies e poi forniti dietro pagamento chi glieli richiede sostanzialmente. Ecco perché questo branch che ha avuto luogo e ha colpito Equifax è sostanzialmente quasi peggiore dell'altro e molti lo indicano come uno dei peggiori accaduti negli ultimi anni, essenzialmente perché i dati questa volta non si trattava di mail, di password, di posta o di cose simili, che comunque sono dei dati non da poco, però in questo caso si trattava appunto di tutte quelle cose che vi ho detto prima, ma non solo, nel senso che una delle cose peggiori che sono state sottratte sono i numeri di quella cosa stramba che c'hanno in alcuni paesi anglosassoni, cioè questi social security number che potrebbero dare vita a alcune truffe anche abbastanza elaborate, ma non troppo. Cioè sostanzialmente se io vi telefono a casa e vi dico che sono la vostra banca e so il vostro nome, il vostro numero di tessera sociale, diciamo che potrebbe essere una specie di nostra tessera sanitaria, però un po' più elaborata, la data di nascita, l'indirizzo dove vivete, eccetera, facilmente vi potrei convincere a darmi anche molte altre informazioni utili, in questo caso, ad esempio, informazioni per accedere al vostro conto bancario. Ecco perché tutto questo branch, sostanzialmente, che che coinvolge potenzialmente, almeno così dichiara l'agenzia, circa 150 milioni di consumatori, e ha una valenza ancora un pochino diversa rispetto a quello comunque colossale di Yahoo, e va un po' a delineare questo quadro di questo mondo abbastanza complesso dove ci si barcamena, ci si arrabatta per sostanzialmente violare quei database informatici dai quali poi facciamo dipendere gran parte della nostra esistenza. E in questo senso questo contestualizza, almeno a mio parere, un pochino anche un tanto piccolo data branch di cui vi volevo dire due paroline, giusto per farvelo presente, che è anche una struttura a noi molto cara, cioè i server autogestiti di Autistici Inventati, sono stati vittime di una forma di data branch in quest'ultimo mese. Penso che ci si è accorti, sostanzialmente, come si legge nel comunicato, che nel mese di agosto qualcuno che non si è riusciti a ricostruire ha avuto accesso come amministratore alle macchine e di conseguenza ha potuto impadronirsi di una serie di dettagli non da poco, nel senso che anche qui di nuovo si va quantomeno a utenti, email, password, eccetera, e di conseguenza sostanzialmente la struttura così com'è di Autistici è stata compromessa. con tutti i problemi del caso, nel senso che si è dovuti, così recita il comunicato del, insomma, del collettivo, reinstallare tutte le macchine, perché non si sapeva cosa era stato toccato o no. Si è dovuto chiedere agli utenti come diritto di cambiare la password, perché non si poteva più garantire la sicurezza della medesima, e di conseguenza si è proceduto diciamo a quelle che sono le prassi in questo caso, nel senso che anche Yahoo aveva chiesto a tutti gli utenti di cambiare le password, Equifax sta nel panico, non si capisce bene che cosa chiede, ma sta nel panico, e in generale tutte queste strutture coinvolte nel data breach in qualche modo hanno poi una ricaduta sull'utente finale. Nel caso di Autistici Inventati è un po' tutto a conduzione familiare, però non è, diciamo, meno inquietante, e va comunque appunto a delineare questo quadro un po' complesso dell'internet moderna, nel quale sostanzialmente anche se forse voi non ve ne rendete conto nel momento in cui a voi sembra di avere semplicemente una casella di posta, in realtà rappresentate per tutto un mercato più o meno, diciamo, di mercato nero, ma neanche troppo, rappresentate qualcosa di molto ghiotto. In questo senso si va un po', secondo me, a ridimensionare, vanno un po' a ridimensionarsi quegli scenari che si andavano a delineare, cioè se voi pensavate, che ne so, è un problema perché, che ne so, il Grande Fratello mi spia, ecco, ora, oltre al controllo quello statale dello stato di cui fate parte, o quello, dovete pensare anche che ci sarà un tentativo molto più... agguerrito, nel senso che non saranno più strutture di controllo messe lì ad hoc, ma magari i vostri dati che risiedono, che ne so, da Gmail, da Yahoo, e la vostra, o la vostra posta che potrebbe, o che risiede anche ad esempio su Autistici, sono messe in pericolo non soltanto quindi da quello che noi potremmo riferire una generica struttura repressiva o di controllo, ma da strutture che hanno un interesse commerciale nell'avere questi dati in maniera illegale, cioè in una maniera o nell'altra. Questo modifica un pochino lo scenario dell'internet attuale legato al mondo della riservatezza, o come si diceva nella puntata precedente, facendo la recensione di un libro uscito ora in Francia. Se volete sapere i dettagli vi andate a sentire la puntata precedente. Loro parlavano, anziché di riservatezza, usavano questo termine molto bello, parlavano di intimità della comunicazione. Ecco, diciamo che attualmente avere dell'intimità sull'internet potrebbe essere abbastanza complesso. E prima di affrontare l'argomento di chiusura di questa breve puntata, e vi faccio ascoltare un altro brano che, diciamo, lo introduce. Infatti andiamo a parlare questa volta di una cosina legata alla Apple, visto che abbiamo parlato appunto della usiamo questo termine brutto, della sicurezza dei vostri account di posta, dei dati che tenete online. Adesso, per continuare la nostra operazione di disvelamento di tutte le persone che possono avere accesso ai vostri dati, parliamo invece di una roba che riguarda il vostro computer, cioè la sicurezza fisica del vostro computer, giusto per non dimenticarsi niente e terminare l'operazione di spavento, cioè nel senso che vi sto spaventando apposta, cioè vi dico tutte le cose brutte e nessuna bella mai. Le case, le scuole, il frigo, rapino la gente, ma con molte mele, più marce di me, più figli di troie, più bastardi, perché c'è chi non ha avuto nessuna possibilità, c'è chi ha avuto tutto ma fa il figlio di puttana. Sono i palazzi più alti, sono le assegnanze brutti, sono i donne e TV, ma poi c'è poco a tutti. Avere tutto e voler anche rubare, sono povero, sono brutto, ma non posso sopportare dentro al mirino del mio nuovo fucile, non più negozi e banche ma la gente. Sfumiamo questa specie di assolo e casino dei Paolino Paperino Band. Il pezzo si intitolava La Mela, perché appunto andiamo ora a parlare della Apple, e in particolare di una cosa abbastanza interessante, buffa, per come viene anche presentata sull'articolo che ho letto, nel senso che l'articolo si apre appunto citando la frase "tenete sempre aggiornato il vostro sistema operativo e anche i software", che è la frase classica che si dice quando si deve consigliare qualcuno riguardo a cosa fare in merito a virus, malware, accessi indesiderati al proprio computer, e viene data questa buona pratica come panacea di tutti i mali. È interessante vedere come in realtà su alcune particolari componenti del proprio computer, che pure necessitano di aggiornamento, in particolare andiamo a parlare di quella che è chiamata Extensible Firmware Interface, che sarebbe una roba stramba per sostanzialmente definire quel pezzo del vostro computer che voi vi trovate già dentro e che vi permette di far avviare un sistema operativo. Se voi avete mai avuto su un computer più sistemi operativi, avete dovuto in qualche modo pacioccare questo coso per dirgli avvia questo o avvia quell'altro. Se ne avete uno solo, in realtà a voi è tutto trasparente, ma questo non toglie che comunque esista. Questo oggetto va a sostituire quello che, se siete vetusti, avete pacioccato un po' i computer, chiamavano BIOS. È sostanzialmente un'idea che è venuta qualche anno fa, molto bella, che però prevede praticamente di fare un sistema operativo per gestire l'avvio del sistema operativo, perché l'EFI è sostanzialmente alla complessità di un sistema operativo. Quindi, come tutti i sistemi operativi, fa parte, cioè ha del software sopra, questo software risulta spesso vulnerabile, e in particolare così risultava quello delle piattaforme messe in giro dalla Apple. Allora, la Apple cosa ha fatto? Ha detto, vabbè, noi facciamo l'aggiornamento, scaricatevi l'aggiornamento. Se non che dei ricercatori hanno visto che la maggior parte, molti di questi computer, anche se hanno comunque hardware Apple, hanno comunque cioè non è che sono stati particolarmente pacioccati, falliscono o nello scaricare la patch, cioè l'aggiornamento, o nell'installarla, o la installano ma poi comunque non succede niente. E questo fa sì che, anche se voi avete fatto lo sforzo di tenere il computer aggiornato e tutte cose come dovrebbe essere e come viene consigliato da tutti, diciamo, dal vostro tecnico informatico di riferimento, ecco, in modo che comunque voi avete pensato di fare il vostro, e in realtà non è vero, non avete fatto niente. E questo è secondo me abbastanza buffo, perché rende bene, se lo legate al complesso scenario di cui vi dicevo prima, diciamo, la fragilità di tutto questo complesso mondo informatico che ci circonda. E in questo senso, almeno dal mio punto di vista, dà un'indicazione su quanto diciamo veramente scusate la TBC e la tosse, su quanto veramente sia in qualche modo non sopravvalutato, ma costruito secondo una lettura del tutto teorica e falsa questo nostro mondo di strumenti ammennicoli e aggeggi. Nel senso che vi si dà una falsa illusione che tutto questo sia preciso, infallibile o comunque tendente all'orologio svizzero, in realtà è tutto un gran paciocco che sostanzialmente si configura come tutto il resto della vita, cioè una roba piuttosto in divenire, piuttosto complessa, dove ecco, certezze ve ne sono molto poche, e quindi quando voi andate a acquistare un oggettino e a fare la coda di chilometri e chilometri per comprare per primi un oggetto della Apple, sappiate che comunque state a comprare spazzatura sostanzialmente, e no, non perché sia Apple, cioè tendenzialmente quasi tutto quello che acquistate di informatica tendenzialmente è un acquisto un po' a perdere, cioè è come comprare l'auto, no? Cioè l'auto è una spesa. Cioè poi ti fanno credere che su quello tu ci metti tutta la tua indipendenza, libertà, se c'hai la macchina grossa probabilmente sei anche più figo, eccetera. Però comunque sempre ciofè che ti stanno a dare. Il computer è più o meno uguale. Quindi il mio consiglio è spendete meno soldi possibili in tecnologia, non fatevi abbindolare da tutte queste cose e riguardo a mantenete il computer aggiornato è senz'altro una buona pratica, non pensate che vi risparmierà da un sacco di paciocchi e questo ve lo dovete assumere, cioè il computer è sostanzialmente un accollo, l'informatica è un accollo, l'automobile è un accollo e sono tutti accolli. E così si chiude con questa parole di buona speranza e buon augurio questa puntata di Coccoli al Silicio. L'appuntamento è per la prossima settimana. La prossima settimana vi racconterò in realtà che cosa ho combinato a Napoli, al NAC, che era questo, che sarà questo incontro che si dipana su sostanzialmente due giorni, principalmente il venerdì e il sabato a Napoli, in quel del terzo piano autogestito il venerdì e la mensa occupata il sabato, e sarà appunto una specie di report delle cose che ho sentito, visto, fatto, e quindi sarà, spero, un poco più diciamo un poco più piacevole e edificante di tutte le magagne che vi ho raccontato oggi. Ciao a tutti.